Siamo con l'autrice e attrice Gioia Salvatori che sarà in scena a Roma al Gay Village il 21 luglio insieme alla Persona, uno spettacolo dal titolo Avere una brutta natura. Sì. Ciao Gioia. Ciao, come va? Ti piace autrice e attrice? Sì, mi piace autrice e attrice, manca magrissima. Magrissima. Magrissima, sì. Esile quasi. Esatto. Sì, siamo il 21 luglio alle ore 21 al Gay Village a Testaccio con questo progetto di teatro canzone che si chiama Avere una brutta natura, in una formazione a quattro con me che recito e canto, poi c'è Paola Fegarotta alla tromba, Gino Maria Boschi alle tastiere e alle chitarre e Gabriel Bevilacqua al contrabbasso. Sì, senti, questa esperienza con la Persona sta evolvendo. Praticamente diciamo che noi siamo un gruppo di quattro amici e che a un certo punto ci siamo messi lì a giocare e sono venuti fuori dei pezzi che poi facciamo, ogni tanto facciamo anche a Sgombro, che è la serata flusso di comici al Cinema Palazzo, di solito invece in estiva al Monk. Sì. E niente, nel giro di un anno abbiamo racimolato un po' di repertorio. Sicché alla fine l'abbiamo messo insieme, cioè l'ho messo insieme a delle cose di prosa, com'è e come non è, è venuto fuori uno spettacolo, ci puoi credere? Ecco. Ma sembra anche che sia in arrivo una incisione o sbaglio? No, un'incisione ancora no, diciamo adesso intanto facciamo questa operazione live e verifichiamo lo spettacolo, poi che ne so, le vie del Signore sono infinite, non ci crede, noi non ci crediamo, le dimensioni sono tantissime e tutte sì. Altre cose della matematica euclidea che io non ho studiato né prima, figurati se la posso sapere mo, capisci? Avere una brutta natura? Avere una brutta natura praticamente appunto a questo progetto di teatro e musica che insiste intorno al concetto del fatto che se sei storto rimani storto e diciamo fieramente anche, nel senso si gira intorno al proprio aste in un modo a volte inutile, a volte utile a riaffermare la propria identità e la propria bizzarria che comunque sia quella con cui dobbiamo convivere, ecco. Però la cosa positiva di tutti coloro che hanno una brutta natura e lo riconoscono, che tendenzialmente lo sanno e quindi sono meno molesti di altri che questa percezione magari non ce l'hanno, chi l'ha detto? Detto questo io sono molto cioè, non è vero che sono meno molesta, cioè, io in particolare comunque sono molto molesta. Lo rivendico. Senti, ma hai margini di miglioramento o neanche ti interessa? No, io avrei dei margini di miglioramento, ma sono molto concentrata fondamentalmente a dimagrire. Ah, ecco. O mi metto a dieta oppure lavoro sulla mia interiorità, la quale è quella che è. Ok. Insomma, è un universo abbastanza così affastellato da una parte e deserto dall'altra, si cammina così un po' nel vuoto. Nel tentativo di poi di provare ogni tanto a divertirsi, non so, tu ti diverti? Sei uno che si diverte? Ha voglia. Ah, tu sei uno di quelli che si gode la vita, i maledetti. Certi maledetti che si fanno delle risatone alle spalle di noi pessimisti, sì. Di noi caratterati. Vabbè, in sintesi, praticamente se tu ti concentri su un obiettivo non puoi distrarti con altro, quindi è questo che mi no, stai dicendo. Sono come le tortore io, cioè nel senso come certi piccioni, capito? Okay. Sono faccio una cosa, poi ossessivamente, poi dopo vediamo, ne trovo un'altra, sempre ossessivamente faccio. E via dicendo così fino alla fine dei miei giorni, diciamo, capito? Sì, e sì. Con me anche i miei colleghi, okay. Insomma, che sono comunque persone dalla natura simile. Natura, sì. Senti, ma è una prima? Abbiamo fatto, sì, diciamo, una presentazione in versione spettacolo, sì, come in questa versione spettacolo, sì. Okay. Ma ci saranno dei seguiti o è un'opera vissuta in quel momento? Io sarei per una cosa che vuoi dire che la fai e poi svanisce. Bello, bello. Di farla, sai, le farfalle che durano. E non se ne conservi memoria. No, esatto. Tutto comunque un grande cercare di rimuovere è sempre l'obiettivo. Però in realtà questa vorrebbe essere l'inizio poi di una divulgazione di questo concetto. Ma che divulgazione? No, però insomma, sarebbe bello Su basi portarlo scientifiche, un po' insomma. in giro, sì, poterlo, sì, scientifica è la parola giusta. Dico, sarebbe bello portarlo un po' in giro e fare esperienza di più palchi e di più pubblici. Questo è un Sì. po' il tentativo, diciamo, per questo lo abbiamo messo poi in forma spettacolare, anche per adattarlo ai teatri, capito? E portarlo in giro. Per Che altro vuoi qualsiasi sapere? tipo di pubblico. Per qualsiasi tipo di pubblico anche. Beh, diciamo sì, è per tutti coloro che nella vita comunque il nervosismo, penso che siamo tanti. Diciamo, poi soprattutto è per le persone anziane come noi, Ah, che noi ok. comunque siamo tutte delle persone che vanno dai 30 ai 40, vediamo avvicinarsi, diciamo, la fine della bella età e della giovinezza, e quindi ci viene questo grande livore e sfoghiamo un po' su noi stessi, un po' sul mondo, diciamo, in un modo poi anche un po' scanzonato, se no sembra che veramente uno fa della filosofia. No, no, sono le nostre quattro paccottiglie messe in croce nel tentativo di riderne, Bene, bene. capito? A questo punto ci dai tutti i riferimenti? C'è l'evento Facebook, Sì, c'è l'evento Facebook, c'è la al pagina quale mi ha Facebook invitato. Salvatori più la persona, l'appuntamento è alle 21, il 21 al Gay Village. E se volete portare una crostata, due tramezzini, non so, no, insomma, No, si tu devi conserva stare di attenta più, alla linea. degli spaghetti. Però che ne so, magari uno vuole portare, no, pare brutto chiedere alle persone di Eh portare dei generi sì. alimentari. No, No, però insomma, diciamo, i ragazzi che suonano come sono tre be due, una ragazza molto carina, due bei ragazzi, insomma, che sono piacevoli a vedersi, quindi anche, no, no. uno Anche ci uno può piacere. spettacolo, insomma, Questo fine estetico, d'estate, ecco. eh? Anche uno spettacolo estetico, quindi. È uno spettacolo estetico perché appunto perché siamo queste quattro bombe sexy, Oh, perciò tu bene, capisci che siamo andati subito in una zona di grande bene. bellezza. Certo. E allora diamo questo appuntamento, avere una brutta natura, Gioia Salvatori più la persona. Che sono appunto Gino Maria Boschi, Paola Fegarotta, che abbiamo bevi l'acqua. Roma Gay Village, 21 luglio, ore 21. Benissimo. Bene, a presto, Gioia, ti arrivederci. bacio. Ciao. Ciao. Ciao.